Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. A sorpresa ante o ressentimento do povo português e a reação que por toda a parte se verificou contra as atitudes e resoluções da ONU levam-me a crer. Questa voce ha fatto tremare migliaia di persone per oltre un trentennio. Si tratta di António de Oliveira Salazar, dittatore del Portogallo dal 1932 al 1968. Il suo potere si esprime in una dittatura analoga al fascismo di Benito Mussolini, al quale si ispira esplicitamente, introducendo una nuova costituzione che gli dà pieni poteri e il controllo totale dello Stato. Salazar sopprime i sindacati, la libertà di stampa e ogni altro tipo di opposizione politica o di dissidenza che possa danneggiare l'egemonia del regime. Il suo supporto politico è il partito unico, l'Unione Nazionale. Il suo supporto repressivo è la polizia segreta, la Policía Internacional de la Defensa do Estado. Durante i suoi lunghi anni di potere, Salazar promuove una politica isolazionista all'insegna dello slogan «fieramente soli», il cui risultato è una lunga stagnazione economica e culturale nel paese. È un convinto colonialista e continua a considerare territorio portoghese anche le province conquistate dal suo paese in epoca medievale, durante il periodo dell'espansionismo, da esploratori come il grande Vasco de Gama, che la giornalista storica portoghese Maria Elisa Domínguez definisce uno dei fautori della globalizzazione mondiale. Come tutti sanno, Vasco de Gama scoprì le rotte per raggiungere le Indie e insieme ad altri esploratori trasformò il Portogallo, un paese piccolo e defilato, nel primo ad iniziare quella globalizzazione di cui oggi si parla così tanto. L'impero coloniale portoghese ingloba, durante la dittatura di Salazar, 5 possedimenti in Africa: Angola, Mozambico, Guinea-Bissau e le isole di Capo Verde e di San Tomé e Principe, oltre a 3 piccole enclave in Asia: Goa, nel subcontinente indiano, Macao, in Cina, e la metà orientale dell'isola di Timor, la più grande dell'arcipelago delle isole Sonda, in Indonesia. Un piccolo stato europeo di appena 90.000 chilometri quadrati, il Portogallo, domina un territorio di più di 2 milioni di chilometri quadrati, il terzo maggiore impero coloniale europeo per estensione. Però, al contrario delle altre potenze europee, per prima la stessa Inghilterra, il Portogallo rifiuta di dare l'indipendenza alle sue colonie. Questo porta alcuni dei movimenti nazionalisti africani a iniziare la lotta armata per l'indipendenza. La guerra coloniale comincia dapprima in Angola, la maggiore e la più ricca colonia portoghese, nel 1961. I diffusi movimenti ribelli che lottano per l'indipendenza provocano un forte senso di smarrimento nell'opinione pubblica portoghese. Si creano forti gruppi di supporto alla definitiva liberazione delle colonie, una realtà considerata ormai obsoleta in un mondo dove non c'è più posto per i vecchi imperi coloniali. Ci troviamo a Lisbona, in un ristorante del centro. È il 1960, alcuni studenti stanno festeggiando. Sono particolarmente felici perché sono convinti assertori della libertà e contrari alla politica colonialista di Salazar. Le notizie della presa di coscienza angolana, che loro supportano da tempo, sono più che buone. Decidono quindi di fare un brindisi. Due di loro sollevano i calici in onore della libertà di tutti i popoli e di ogni singolo essere umano. Non si accorgono però che un uomo li sta osservando. È uno di quegli individui capaci di mimetizzarsi perfettamente tra la folla, uno di quelli che nessuno nota più di tanto. È una caratteristica che fa parte integrante del suo lavoro. È infatti un agente della polizia segreta di Salazar. Il poliziotto esce non visto dal ristorante. Nessuno lo nota e i giovani continuano a ridere e a scherzare. Ma improvvisamente un gruppo di agenti armati fa irruzione nel locale e arresta i due studenti, lasciando gli altri avventori di stucco mentre una cantante di fado intona la sua canzone. La fonte dos amores és tu. Due studenti portoghesi brindano alla libertà in un ristorante di Lisbona. Siamo nel 1960 e il paese è in mano al dittatore Antonio de Oliveira Salazar. La polizia segreta fa arrestare i due studenti, che vengono processati per direttissima e condannati a 7 anni di reclusione. Il giorno dopo, a 1500 chilometri di distanza, un uomo sta leggendo il giornale, seduto comodamente in una carrozza della metropolitana di Londra. L'uomo è un avvocato e di solito le sue letture sono inerenti alla professione che svolge. Ha con sé anche alcuni fascicoli riguardanti i casi che sta seguendo in quel momento. Su tutte le cartelline spicca il suo nome, Peter Benenson. Peter Benenson. Quella mattina, però, contrariamente alle sue abitudini, l'avvocato sta leggendo il Daily Telegraph. Scorre con una certa superficialità le notizie che riporta il quotidiano, distratto dalla folla che si accalca nel vagone. Ma ad un tratto la sua attenzione viene catturata da una notizia che lo lascia senza fiato. E lui stesso a raccontarlo molti anni dopo in una intervista. Era il 19 novembre del 1960. Ero seduto in metropolitana e leggevo un giornale, il Daily Telegraph, quando un articoletto in particolare attrasse la mia attenzione. Riportava la notizia che due studenti portoghesi erano stati imprigionati e condannati a 7 anni con la sola accusa di aver brindato alla libertà in un ristorante di Lisbona. Questo avveniva durante i giorni bui del regime di Salazar. La notizia provocò in me una profonda indignazione, perché sorpassava qualsiasi limite. L'avvocato è sconvolto. Esce dalla metropolitana alla stazione di Trafalgar con la precisa intenzione di dirigersi all'ambasciata portoghese. Sente il desiderio impellente di sollevare una protesta personale sull'accaduto. Poi però cambia idea e si dirige verso la vicina chiesa di St. Martin in the Fields. Ha bisogno di raccogliere le idee, vuole fare qualcosa di più di una semplice protesta. Forse perché è un grande sostenitore della libertà, forse perché ama il vino e i brindisi, forse perché non sopporta i soprusi, Benenson si sente a una svolta della sua vita. Fin da quando è piccolo, certe cose proprio non gli vanno giù. Peter James Henry Solomon nasce a Londra nel 1921 e ha solo 9 anni quando suo padre, Harold Solomon, ufficiale dell'esercito britannico, muore dopo una lunga malattia. La madre Flora è figlia del banchiere ebreo russo Grigori Benenson, che si occupa personalmente dell'educazione del nipote mandandolo al notissimo college di Eton. Qui Peter, che assume il cognome della madre, dimostra subito la sua inclinazione a occuparsi delle problematiche sociali. Gli studenti non sono contenti della qualità del cibo della mensa scolastica, ma nessuno osa fiatare. Peter ha solo 15 anni, non ha paura. Ha chiesto un colloquio con il preside e ora si trova di fronte a lui e protesta calorosamente. Qualche giorno dopo, la madre Flora si vede recapitare una lettera dalla scuola. Gentile signora Benenson, porto alla sua conoscenza un fatto verificatosi solo ieri. Suo figlio Peter mi ha chiesto un colloquio privato durante il quale egli ha perorato in maniera vigorosa la causa dei suoi compagni. La lamentela degli studenti riguarda la situazione della mensa, che è un fatto da me già appurato e in via di risoluzione. Non voglio soffermarmi su questo. Quello che desidero portare alla sua attenzione è la veemenza con la quale suo figlio si è espresso. Non le dico che sia stato maleducato, ma le motivazioni che lo muovono mi paiono alquanto rivoluzionarie. Le sottolineo questo perché trovo suo figlio parecchio ribelle. In effetti, mentre parla con il preside, il giovane Peter sente dentro di sé come un fuoco bruciante che lo fa star male. Perché mai, sta pensando, loro devono mangiare alla mensa scolastica che propone sempre cibi scadenti e soprattutto freddi, mentre il preside e il corpo docente si fanno recapitare i pasti dal vicino ristorante. Ecco, Peter questa la trova un'ingiustizia. Trova che loro si approfittino della posizione privilegiata che rivestono per tirare l'acqua al proprio mulino. Peter si ascolta compiaciuto mentre propone al preside di mangiare nella mensa con gli studenti per una settimana. Se ne accorgerà da solo di quanto sia scadente. Non ci è dato sapere se la mensa di Eton migliori grazie all'intervento di Peter Benenson. Quello che sappiamo è che l'anno dopo il ragazzo è di nuovo schierato su di un fronte ancora più impegnativo. È da circa un anno che l'opinione pubblica mondiale guarda con preoccupazione a un conflitto che si preannuncia particolarmente grave. E la guerra civile spagnola tra i nacionales antimarxisti e i republicanos sostenitori della Repubblica filomarxista. È un conflitto lacerante che vede la sconfitta della causa repubblicana e la nascita della dittatura di Francisco Franco. Il fatto di essere un conflitto vicino, unito alla sua particolare crudezza di guerra civile, tocca profondamente gli animi e in tutta Europa se ne parla. Si contano molti caduti. Alla fine del conflitto, nel 1939, la stima si avvicina al milione di deceduti tra soldati e civili. Il problema degli orfani di guerra diventa una questione sociale di cui si fanno carico in diversi paesi le associazioni umanitarie. Peter sente di dover fare qualcosa anche lui. È seduto nel suo banco, oltre l'orario scolastico, e sta scrivendo una petizione in favore dei bambini spagnoli che sono rimasti soli. Il suo entusiasmo e il suo trasporto sono tali che riesce addirittura a coinvolgere la scuola e a creare un comitato di raccolta fondi. Lui stesso, nonostante la giovanissima età, adotta un bambino iberico a distanza per restituire una speranza al suo futuro. Peter Benenson è un ragazzo londinese che studia ad Eton, uno dei college più esclusivi d'Inghilterra. Ma nonostante sia un privilegiato, è infatti nipote di un ricco banchiere ebreo russo, si interessa in maniera attiva alla sorte dei meno fortunati. Quando scoppia la guerra civile in Spagna, si adopera per raccogliere fondi per gli orfani e ne adotta uno a distanza, pur avendo solo 16 anni. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale e il suo paese entra in maniera attiva nel conflitto, Peter si ribella alla follia nazista. Le notizie delle persecuzioni di cui sono oggetto gli ebrei lo sconvolgono. Peter è ad Oxford, dove si è iscritto a un corso universitario di storia. Sente che non può starsene con le mani in mano. Suo nonno è ebreo, ma non è solo questo. Quello che sente, mentre pensa a ciò che accade nel mondo in quel momento, è una indignazione che valica quelle che sono le sue origini. È il rifiuto di un essere umano che non ammette la sofferenza e la prevaricazione di altri esseri umani. Lo scrive anche nel suo diario. Fin da ragazzino non potevo sopportare i prepotenti, figuriamoci come potevo vedere Hitler e la sua politica. Decisi che dovevo fare qualcosa per quella gente ingiustamente perseguitata. Forse rischiavo la vita, ma come me e molti altri. E poi che vita sarebbe stata se lasciavo che tutto avvenisse senza almeno indignarmi? È così che Peter, attraverso conoscenti di suo nonno, entra a far parte di un'associazione che aiuta gli ebrei a scappare dalla Germania in Inghilterra e in Svizzera. Intanto continua a studiare. In certi momenti gli sembra una sciocchezza fare lo studente, mentre nel mondo la follia umana raggiunge livelli tragici, ma è anche vero che gli studi che sta compiendo lo mettono di fronte a realtà che si sono già verificate negli anni passati. La storia dell'umanità è tutta costellata di eventi che vedono soccombere i più deboli e i più forti avere la meglio. Peter, che si è arruolato nella British Army e lavora nell'ufficio stampa del Ministero dell'Informazione, scopre come sia facile manipolare la verità. Ne rimane talmente sconvolto che decide all'istante di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Fare l'avvocato gli appare in quel momento l'unica maniera concreta per combattere i soprusi e le ingiustizie. Intanto arriva la notizia che tutti aspettano. Yesterday morning, at 2:41 a.m., at General Eisenhower's headquarters, General Jodl signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force. È il messaggio originale di Winston Churchill che dalle frequenze di Radio Londra annuncia al mondo intero la fine delle ostilità. La Seconda Guerra Mondiale è finalmente finita. Peter Benenson è seduto nel salotto della sua casa di Londra e sta ascoltando la voce di Churchill. È uno dei momenti più belli della sua vita. Quella che lui considera la grande follia della sua epoca ha finito di mietere vittime innocenti. Adesso Peter può studiare legge a tempo pieno. Sente ben chiara dentro di sé la vocazione a occuparsi delle cause civili, quelle che coinvolgono l'essere umano nelle sue esigenze primarie, la libertà, la salute, il lavoro, in una parola, la giustizia sociale. Peter vuole impegnarsi ancora di più, ecco perché decide di entrare nel Partito Laburista Britannico, il Partito del Lavoro, storicamente socialdemocratico. Si è laureato ed entra a far parte della Società degli Avvocati Laburisti. Finalmente arriva il suo primo incarico importante. Il Congresso dei Sindacati Unitari decide di inviarlo in Spagna come osservatore nei processi che si stanno celebrando contro alcuni sindacalisti locali. Siamo nei primi anni 50 e la Spagna è governata dal dittatore Francisco Franco. Un Stato totalitario armonizzerà in Spagna il funzionamento di tutte le capacità e energie del paese. Sostenitore dell'anticomunismo e oppositore dello spettro anarchico, El Caudillo de España ha un rapporto decisamente conflittuale con i sindacati. Peter Benenson si sta recando in Spagna e non sa bene cosa aspettarsi. In qualità di osservatore deve vigilare sul corretto andamento dei processi, ma fin da subito riscontra delle forti irregolarità e questa è una cosa che proprio non gli va giù. Circondato dai faldoni dei processi che affollano la scrivania della sua camera d'albergo a Madrid, l'avvocato sta studiando gli atti. Decide di preparare una lista completa delle inadempienze legali da discutere con il giudice. È convinto di dover dimostrare la massima fermezza e che la sua intransigenza possa condurre velocemente a una risoluzione di giustizia. E ha ragione. Il processo si conclude con la completa assoluzione degli imputati, un fatto estremamente raro nella Spagna franchista. Nei suoi appunti Benenson esprime tutta la gioia per il risultato, ma anche la voglia di fare di più. Fu una grandissima vittoria e mi dette la possibilità di ripetere lo stesso tipo di intervento anche in altri paesi del mondo. Andai in Ungheria e Sudafrica e con altri avvocati creammo Justice, un'associazione per la difesa della legge nel mondo. Ma non mi bastava. Sentivo che si doveva fare qualcosa di più, qualcosa che coinvolgesse tutti quanti, non solo gli avvocati. Poi lessi quell'articolo sul Daily Telegraph dei ragazzi portoghesi. Fu la classica goccia. Peter Benenson è seduto in un banco nella chiesa di St. Martin in the Fields. Ha preferito dirigersi qui per riflettere, piuttosto che recarsi, come aveva pensato in un primo momento, all'ambasciata portoghese. L'indignazione che lo pervade per la vicenda dei due studenti di Lisbona cede il posto alla determinazione più assoluta. Tutto il mondo deve conoscere quello che è successo. È sicuro che saranno moltissimi coloro che si indigneranno allo stesso modo. Ha solo bisogno di trovare qualcuno che lo aiuti, che gli dia il giusto supporto, che lo metta in contatto semplicemente con il mondo intero. Qualcuno che, come lui, abbia a cuore la giustizia, rifiuti i soprusi e le prevaricazioni, senta dentro di sé il sacro fuoco della comunanza con i propri simili. Non è facile, ma lui sa da chi andare. L'uomo giusto esiste. So many years have gone back, always strong, tried not to cry. Never felt like I needed any man to comfort me in life. But I'm all made up today, a veil upon my face. But no father stands beside me to give this bride away. Destini incrociati. Destini incrociati vi porta oggi nella chiesa di St. Martin in the Fields, nel cuore di Londra, dove si è rifugiato per pensare e raccogliere le idee un noto avvocato laburista, attivamente impegnato sul fronte della tutela legale dei diritti civili. Si tratta di Peter Benenson. Seduto in un bancone isolato e tranquillo, l'uomo sta riflettendo sul da farsi. Mentre era comodamente seduto in metropolitana, ha letto sul giornale una notizia sconvolgente. Due studenti portoghesi sono stati arrestati dalla polizia segreta del dittatore Antonio de Oliveira Salazar, con l'accusa di avere brindato alla libertà mentre cenavano in un ristorante di Lisbona e per questo condannati a 7 anni di carcere. È un piccolo trafiletto, ma crea nell'avvocato un senso di forte ribellione. Vorrebbe precipitarsi subito all'ambasciata portoghese per reclamare, ma poi ci ripensa e si dirige verso la chiesa. Ha bisogno di riflettere. Decide che deve assolutamente fare qualcosa che sia più efficace di una protesta singola. Si convince che se l'opinione pubblica verrà a conoscenza del fatto, avvertirà lo stesso tipo di fastidio che prova lui. Perché una campagna solo per un paese? Perché invece non attuare una campagna mondiale per tutte le persecuzioni religiose e politiche? Peter Benenson sta riflettendo sull'importanza di una sollevazione popolare, una presa di coscienza corale che mobiliti i governi, i politici, le persone influenti di tutto il mondo. Ma ha bisogno di un alleato, qualcuno che possa aiutarlo e che soprattutto abbia la possibilità di contattare un numero elevato di persone. Ci vuole un giornale, un quotidiano con un'alta tiratura, ma non basta. Ci vuole un giornale influente, che sappia parlare con le classi dirigenti, con gli opinion leader, con le persone che in qualche modo hanno potere decisionale. Ma ci vuole anche una vetrina sul mondo, un giornale che parli alla gente, che sia letto anche dal popolo. C'è solo una testata che corrisponde a tutte queste caratteristiche e c'è solo un editore che Peter Benenson pensa che possa ascoltarlo. Il giornale è The Observer e l'editore si chiama David Astor. David Astor. C'è una ragione ben precisa per la quale l'avvocato decide di interpellare proprio Astor. Ed è una ragione che risale a parecchi anni addietro e che di certo ha cambiato la vita e il modo di pensare di quel giovane rampollo di una delle famiglie più ricche in vista di tutta la Gran Bretagna. And we got drunk on alcohol and on love, the strongest poison and medicine of all. See how that feeling comes and goes, like the pull of moon on tides. Now I am surprising, now parched rips of sand at his side. David Astor, figlio del potentissimo editore Waldorf, erede di una famiglia tra le più ricche in vista della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America, cresce nell'ambiente raffinato e chic dell'immensa tenuta di famiglia a Londra, frequenta le amicizie del padre, viene educato nei college migliori. Eppure è tutt'altro che un ragazzino viziato. È sensibile, delicato nei modi, gentile e ha una naturale inclinazione verso il prossimo, una istintiva compassione verso i poveri, verso coloro che soffrono o hanno avuto dissesti economici. Spesso si apparta essendo molto timido e si guarda intorno. Casa sua è una meraviglia. Ovunque vede oggetti d'arte, suppellettili preziose, quadri di autori famosi, tappeti pregiati, mobili antichi. Lo sfarzo e la ricchezza sono distribuiti in maniera diffusa e totale. Lui ha l'educazione per apprezzare le belle cose, ma al tempo stesso vive un doloroso senso di vicinanza con tutti coloro che quelle cose, al massimo, possono vederle in un museo. Fin da ragazzino non potevo fare a meno di pensare che quel tappeto sul quale mi sdraiavo a giocare con i cani avrebbe risolto la vita di tanti padri di famiglia che non riuscivano a portare a casa uno stipendio decente per tirare avanti. L'istinto mi portava a staccare uno dei tanti quadri della collezione di mio padre e portarlo nei sobborghi poveri di Londra per regalarlo alla prima famiglia che incontravo. In fondo a noi non serviva quel quadro. David si trova al Balliol College dell'Università di Oxford, dove frequenta legge con una certa difficoltà. È molto timido, sta spesso per conto suo e fa difficilmente amicizia con gli altri studenti. Ne incontra uno però con il quale sente di avere molto in comune e che diviene suo amico per la pelle. È Adam von Trott du Solz, un ragazzo tedesco figlio del ministro della cultura prussiano. Come David, anche Adam è nobile, ricchissimo e molto sensibile e insofferente ai soprusi e alle prevaricazioni. L'amicizia tra David e Adam diviene profondissima. I due si influenzano a vicenda e le loro convinzioni si radicano sempre di più. Una sera in particolare, i due stanno parlando nella biblioteca dell'università. Conversando del più e del meno, i due ragazzi sono arrivati a trattare un argomento molto serio, quello delle prevaricazioni razziali. Adam, nel parlare, mette talmente tanta foga in quello che dice che David è senza parole e lo ascolta rapito. Come si può accettare che un potente utilizzi la sua posizione privilegiata per commettere violenza sui più deboli? E come si può sopportare che un essere umano ne uccida un altro solo perché non ne condivide la religione, o il colore della pelle, o le ideologie? Un uomo che si chiami tale non può e non deve passare sopra cose del genere. Alcuni anni dopo, David Astor, che nel frattempo ha assunto la direzione del giornale del padre, The Observer, resta di nuovo senza parole, venendo a conoscenza di quello in cui è coinvolto il suo caro amico. Adam è uno dei membri del gruppo capeggiato dal colonnello dell'esercito tedesco Klaus von Stauffenberg, che fa parte del famoso complotto del 20 luglio 1944 per assassinare Hitler. Il complotto viene sventato e tutti i cospiratori impiccati. Per David è un duro colpo. Mentre legge la notizia della morte di Adam, che gli è giunta in anteprima alla redazione, giura a se stesso che dedicherà la sua vita a quegli ideali per i quali il suo amico è morto. È per questo motivo che quando i suoi collaboratori lo informano che l'avvocato laburista Peter Benenson, attivamente impegnato sul fronte della tutela legale dei diritti civili, ha chiesto di incontrarlo, non esita un secondo e gli dà un appuntamento. Destini incrociati. Siamo nella sede londinese del giornale The Observer. Due uomini si sono appena stretti la mano. Uno dei due è l'editore del giornale, David Astor, rampollo di una nobile e ricca famiglia di imprenditori inglesi, ma al tempo stesso uomo estremamente attento alle problematiche sociali e al benessere dei propri simili. Nonostante sia molto ricco, vive modestamente e impiega parte del suo patrimonio per finanziare le cause in cui crede. Astor ha reso The Observer un giornale di grande successo, molto influente, pubblicando sulle sue pagine le opinioni di tutte le fazioni politiche senza schierarsi apertamente e puntando l'attenzione sulle cause civili più importanti del suo tempo, come quella della violazione dei diritti umani in Africa, la pena di morte, di cui egli perora l'abolizione, la fine delle censure e delle persecuzioni razziali e religiose. Sulle pagine del suo giornale scrive un personaggio molto in vista in quegli anni in Inghilterra, un suo grande amico destinato a influenzarlo moltissimo, Eric Arthur Blair, meglio conosciuto con lo pseudonimo di George Orwell. David è entusiasta di lui. Orwell era una persona speciale. Diceva le cose che avrei voluto dire io. Vedeva le cose sotto una luce che io istintivamente trovavo profondamente giusta. Ha influenzato moltissimo il mio modo di pensare e le mie scelte. E così ora David Astor sta stringendo la mano a un uomo che ha chiesto di parlare con lui. Il suo nome è Peter Benenson. Di lui Astor sa che è un avvocato, che si occupa da anni delle grandi cause civili, che come lui non sopporta i soprusi e le prevaricazioni e che si batte per la libertà di parola, di pensiero, perché gli esseri umani di qualsiasi razza, colore, religione possano essere considerati uguali e non vengano discriminati. Peter Benenson sta raccontando a David Astor della sua indignazione per aver letto sul Daily Telegraph di due studenti portoghesi arrestati e condannati a ben 7 anni di carcere per il semplice fatto di avere brindato alla libertà in un ristorante di Lisbona. La polizia segreta del dittatore Salazar li ha portati via davanti a molti testimoni. Astor comprende e condivide l'indignazione dell'avvocato e decide di assecondarlo nella sua richiesta. Fare un appello a tutti i lettori dell'Observer perché si indignino a loro volta e scrivano una lettera di protesta. Il lungo appello di Benenson, The Forgotten Prisoners, I prigionieri dimenticati, viene pubblicato il 28 maggio 1961. Aprite il vostro quotidiano in qualsiasi giorno della settimana e troverete la notizia di qualcuno da qualche parte del mondo che è stato imprigionato, torturato o ucciso poiché le sue opinioni e la sua religione sono inaccettabili per il suo governo. Ci sono milioni di persone in prigione in queste condizioni, sempre in aumento. Il lettore del quotidiano percepisce un fastidioso senso di impotenza. Ma se questi sentimenti di disgusto ovunque nel mondo potessero essere uniti in un'azione comune, qualcosa di efficace potrebbe essere fatto. Nel giro di pochi giorni, la redazione dell'Observer viene letteralmente sommersa da lettere di solidarietà per i due studenti portoghesi. David Astor e Peter Benenson faticano a credere ai propri occhi. Si aspettavano una qualche reazione da parte dei lettori, ma non di certo una cosa del genere. Nei giorni successivi, i due uomini continuano ad aprire missive che arrivano da ogni dove. Mentre Peter mostra a David una lettera di un bambino che arriva dagli Stati Uniti, l'editore ne apre un'altra che arriva dal Giappone. Tutto il mondo si commuove per le parole di Peter Benenson. Tutto il mondo le può leggere grazie alla decisione di David Astor di pubblicarle sul suo giornale. Nel giro di pochi mesi si creano gruppi di autori di lettere a sostegno della causa dei due giovani portoghesi in una dozzina di paesi. Per coordinare la richiesta di amnistia per i due ragazzi viene fondata Amnesty International. I thought be strong. This rage, this dark side, I don't want to feel. Lays there, lays there, lays there. L'avvocato laburista londinese Peter Benenson, da anni impegnato sul fronte delle cause civili per la libertà di pensiero, di religione e di parola, per la dignità e la sicurezza di tutti gli uomini, ha convinto David Auster, editore dell'Observer, a pubblicare un suo lungo articolo nel quale denuncia la cattura e condanna di due studenti portoghesi, colpevoli di avere brindato alla libertà in un ristorante di Lisbona durante il regime del dittatore António de Oliveira Salazar. Il grande successo dell'articolo, che invita i lettori a scrivere una lettera di petizione in cui chiedono l'amnistia per i due ragazzi, è tale che Benenson decide di fondare un'associazione che possa gestire le migliaia e migliaia di lettere giunte da tutto il mondo alla redazione del giornale londinese. Nasce così Amnesty International. Quale simbolo dell'associazione, Benenson sceglie una candela avvolta dal filo spinato. Quando ho acceso la prima candela di Amnesty, avevo in mente un vecchio proverbio cinese. Meglio accendere una candela che maledire l'oscurità. Questo è anche oggi il motto per noi di Amnesty. Nell'idea del suo fondatore, la visione di Amnesty International è quella di un mondo in cui ad ogni persona siano riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da altri atti sulla protezione internazionale. La missione di Amnesty International è quella di svolgere ricerche e azioni per prevenire e far cessare gravi abusi dei diritti all'integrità fisica e mentale, alla libertà di coscienza e di espressione e alla libertà dalla discriminazione. L'impegno di Peter Benenson in prima persona, insieme a tutti i suoi collaboratori e alla rete che negli anni si crea sempre più capillare, porta frutti insperati e si ottengono risultati importanti, tanto che nel 1977 Amnesty International viene insignita del più ambito premio esistente al mondo, il Nobel per la pace. In 1977 had been declared Prisoners of Conscience Year by Amnesty International. And the award of the prize is a most welcome support for our efforts. On behalf of Amnesty International, the diploma and the gold medal of the Nobel Peace Prize for 1977. Attualmente Amnesty International conta più di 3 milioni di soci sostenitori e donatori in più di 150 paesi. Quest'anno l'associazione ha compiuto 50 anni. In tale occasione, l'attuale segretario generale, Salil Shetty, ha espresso un augurio che non lascia dubbi circa il futuro di Amnesty. Ci sono ancora 40 paesi nel mondo che praticano la pena di morte, ma nei prossimi 10 anni non c'è ragione per cui non si possa pensare di abolirla definitivamente, o che le donne di tutto il mondo abbiano uguali diritti degli uomini, o che si elimini definitivamente la tortura come metodo di interrogatorio. Nei prossimi anni Amnesty avrà milioni e milioni di membri in tutto il pianeta. Questo è il mio augurio per Amnesty. L'appello di Peter Benenson per chiedere l'amnistia per i due studenti portoghesi si trasforma in breve tempo in una realtà concreta che agisce per la difesa dei prigionieri di coscienza, un termine coniato per intendere tutti coloro che vengono perseguitati per le loro idee o per la loro religione o per il colore della pelle. È un impegno gravoso, difficile da realizzare, che non sempre va a buon fine e che non consente di abbassare mai la guardia. È per questo che il simbolo di Amnesty è una candela che rimane sempre accesa. La candela di Amnesty International non brucia per noi, ma per tutte quelle persone che non siamo riusciti a salvare dalla prigione, che sono state uccise, torturate, rapite, scomparse. Per loro brucia e non si consumerà mai. Peter Benenson e David Auster hanno creduto nel potere delle persone comuni di provocare cambiamenti. Creando Amnesty International, hanno dato anche a ciascuno di noi l'opportunità di fare la differenza nella difesa dei diritti umani in tutto il mondo. Sleep is out.